Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Partiamo dall'esperienza di un ascoltatore stasera per affrontare una problematica che da poco ha iniziato a essere rilevante anche in ambito domestico. Potremmo riassumerla così in modo un po' grezzo: l'efficienza è un po' come un canotto, insomma bisogna che tutti i rematori voghino in modo coordinato per ottenere il massimo risultato. Il dato emergente infatti è che in molte case iniziano a esserci più rematori, cioè più impianti per l'efficienza energetica, che spesso poi si sono aggiunti e devono anche integrarsi con quelli preesistenti. In questi casi, perché il sistema funzioni con il massimo dell'efficienza, c'è bisogno di un pizzico di intelligenza, c'è bisogno di uno che dia i colpi, per così dire, ovvero di un componente che regoli e coordini tutti i sistemi. Questa sera vediamo un caso pratico, quello di un ascoltatore, l'ingegnere Stefano Salvato, che è appunto un ascoltatore ma è anche un ingegnere, nello specifico si occupa di sicurezza dei grandi impianti industriali, quindi roba decisamente più complicata dell'impianto di riscaldamento di casa, e che da bravo ingegnere ha affrontato con metodo il problema. Ciao Stefano, benvenuto a Mr. Kilowatt. Buonasera. Allora Stefano, noi ci conosciamo benissimo, quindi non facciamo la pantomima del lei. Partiamo invece dal tuo problema, prova a descrivercelo. Qual è stato il tuo dubbio? Io dicevo buonasera a tutti gli ascoltatori. Tranne che a me, ok. La mia esigenza era essenzialmente quella di riscaldare casa mia in modo efficiente. Io parlo di una casa di 200 metri quadri utili, sostituendo una caldaia a metano di 10 anni fa, quindi non recentissima, con un sistema che fosse il più possibile valido e efficiente dal punto di vista del risparmio energetico. Ecco, e quindi su cosa ti eri orientato? Inizialmente su una pompa di calore, avendo oltretutto già installato un impianto fotovoltaico da 3 kW, la mia prima idea era quella di dire, beh, installiamo una pompa di calore che funziona all'energia elettrica e quindi producendomi l'energia elettrica con l'impianto fotovoltaico, utilizzarla anche per il riscaldamento della casa, che è un riscaldamento a pavimento e quindi può funzionare egregiamente anche con una pompa di calore. Perfetto. E qual è il problema? Perché insomma qui quando ti sei messo a fare i conti è venuto fuori che? Il problema è quello che alla fine una pompa di calore comunque assorbe molta energia elettrica, pur essendo una macchina estremamente efficiente dal punto di vista energetico, comunque assorbe energia elettrica che si paga, e si paga il triplo del metano, insomma, facendo i conti a spanne. A parità di energia che viene resa disponibile, diciamo. Esattamente, no? Sì. Esattamente. Cioè la pompa di calore, diciamo, ogni kilowattora di corrente che consuma ne produce in termini termici almeno 3-4 volte tanto, ma dipende dalle condizioni in cui si utilizza. Cioè dalla temperatura esterna, quella da cui viene assorbita, succhiata energia, perché ricordiamolo, la pompa di calore è una specie di ladro che ruba energia dall'ambiente circostante, energia termica, calore, e lo pompa dentro casa appunto, e quindi riscaldandola. Però funziona mica tanto bene se fuori la temperatura è estremamente bassa, cosa che dalle tue parti dove abiti tu succede. Questo succede, infatti in inverno, nei mesi gennaio, insomma dicembre, gennaio, ma anche novembre, abbiamo temperature che vanno tranquillamente sotto lo zero. Una pompa di calore che deve prelevare aria, prelevare calore dall'aria fredda a temperature inferiori allo zero e portarlo a 20 gradi, in inverno sì, ha un'efficienza, ma non è certo l'efficienza sbandierata, il cosiddetto coefficiente di performance pari a 4-5. Diciamo, questa efficienza ce la può avere nelle stagioni in cui, diciamo, le mezze stagioni in cui l'aria esterna è più calda, ma non certo in inverno. Non certo in inverno. Il risultato è che la pompa di calore in quelle condizioni lì costa di più del metano. E quindi che cosa hai pensato di fare? Ma ho pensato di vedere se era possibile trovare un sistema integrato che consentisse di utilizzare il metano quando è più vantaggioso economicamente rispetto all'energia elettrica che consuma la pompa di calore, e contestualmente usare una pompa di calore più piccola, però in modo tale da decidere, o meglio far decidere in maniera automatica al sistema, quali sono le condizioni ottimali affinché una pompa di calore consumi meno in termini finali, quindi di spesa monetaria, consumi meno della caldaia a metano. Quindi hai deciso un sistema in cui tu mantieni la tua caldaia a metano, magari la metterai un po' più efficiente, gli affianchi una piccola pompa di calore che funzionerà quindi nelle stagioni intermedie. Ma che cosa c'è che controlla e decide quando usare la caldaia, quando usare la pompa di calore? Ho fatto una piccola indagine di mercato e ho visto che esistono prodotti già commercializzati che sono effettivamente delle caldaie intelligenti, cioè consentono tramite un sistema di sonde che vengono posizionate in vari punti all'interno e all'esterno dell'abitazione di stabilire in base alle condizioni climatiche se è meglio utilizzare, diciamo, la fonte primaria di default dell'impianto che è il metano o se selezionare fonti alternative come per esempio una pompa di calore. Che funzionerà soprattutto in certe stagioni, vero? Esattamente, perché è proprio nei mesi, diciamo da marzo a aprile, che sono mesi in cui dalle nostre parti ancora non si può rinunciare al riscaldamento, oppure in ottobre o la prima metà di novembre, dove le condizioni sono più favorevoli, la macchina è in grado automaticamente di selezionare una pompa di calore sulla base di un bilancio di costi sostanzialmente, perché in quel momento le condizioni diciamo di resa della macchina sono molto favorevoli, più favorevoli in termini di spesa del metano, e quindi la macchina automaticamente selezionerà questa fonte. Benissimo, ecco, ora aggiungiamo un'altra variabile, per esempio i pannelli solari. Queste caldaie intelligenti riescono a gestire tante fonti diverse, vero? Non solo due. Ormai sì, si trovano sul mercato caldaie che sono già progettate per gestire in maniera mirata anche altre fonti, quindi tipicamente i pannelli solari termici, ma anche per esempio delle stufe a pellet. Dunque, ma tutte queste belle cose di cui abbiamo parlato si possono fare con tutte le caldaie? Con una qualsiasi? Naturalmente no, ci vuole una caldaia di ultima generazione che sia stata progettata per gestire più fonti e contenga fra le proprie caratteristiche anche questo computerino di bordo, come ci potrebbe essere in un'autovettura, che sia in grado effettivamente di svolgere anche queste funzioni. Grazie Stefano Salvato. Grazie a te. Bene, per stasera è tutto, appuntamento a domani, parleremo di grid parity del fotovoltaico, che è molto molto vicina. Buona serata.